Inizia ora Music for Youth. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandonà 102200, Radio Sherwood 97800. Ringraziamo ancora una volta la legge Basaglia che ci permette di essere fuori a piede libero e poter registrare ogni mercoledì questo programma. Benvenuti a Music for Youth e questa purtroppo è anche la nostra ultima puntata per questa stagione. E questa, buonasera Daniele Terzariol, questa è la nostra ultima puntata per questa stagione e infatti non abbiamo un ospite. No, ma è anche stata una scelta nostra. Sì, scelta di studio, scelta Internos. Ho detto, questa volta ce la prendiamo comoda. Lo studio è piccolo, la gente mormora e noi ce la risolviamo. I panni sporchi ce li abbiamo in casa. Esatto, e quindi abbiamo deciso che non ci sarà un ospite, ma vi prendete un'oretta piena delle nostre voci. Pensa che culo! I soliti fortunelli, gente che aveva meritato lo stesso trattamento chiavistico, era sintonizzata due settimane fa su Radio Sherwood dalle 19:30 alle 22:30 per una maratona che ci ha visto protagonisti. Purtroppo per chi ci ha ascoltato, noi siamo anche tutto sommato contenti, prima del concerto dei Motel Connection. Esatto, ci siamo fatti tre orette buone in un gazebo secondo noi carino, con un sottofondo di biliardini che girellavano nell'aria, e è andata discretamente bene. Poi verso la fine niente, siamo ricorsi a delle birre, il che ha ulteriormente fatto cadere il livello già penoso di questo programma. Rendiatevi conto che io non mi ricordo assolutamente niente dell'ultima mezz'ora di trasmissione. So solo però che nell'ultima mezz'ora dovevamo chiudere con un pezzo che era London I Love You But You Bring Me Down degli LCD Sound System, e noi riprendiamo da dove abbiamo finito, però con una variazione. Il motivo circolare della poesia ottocentesca, Terzariol, quanta meraviglia. Perché dicevo con una variazione? Perché il primo pezzo che andremo ad ascoltarci questa sera, che cos'è? All My Friends, che è un pezzo di LCD Sound System, però nella versione rifatta dai Franz Ferdinand. Sì. LCD Sound System, beh, niente da dire, dei capolavori dell'elettronica messi in piazza. In sostanza questi si rendono noti al grande pubblico quando scoprono che i Daft Punk stanno suonando seduti sul loro divano, tutti i mobili stanno in garage e c'è una grossa cassa in salotto. A questo punto fanno una serie di singoli che hanno dello strepitoso, fra l'altro suonano anche in giro e vengono lo scorso settembre per un DJ set in quel di Mestre. DJ set che, devo dire, nostro malgrado e forse loro malgrado anche, rimane quasi deserto. Un vero peccato, non sapete cosa vi state perdendo. Un vero peccato, tra l'altro, un DJ set organizzato dal Venice Disconnect, in quel del Venice Airport, cioè di fianco a dove ti parcheggiano i 737 sul collo. Sì. C'è anche la possibilità di vedere atterrare gli aerei, cosa che a Terzariol piace parecchio, momento molto autoreferenziale. Un ottimo Venice Disconnect che ospitava quell'anno anche i Roixop. Esatto. L'anno precedente i Leditron, che avevano portato il loro disco Velocifero in tour in giro per l'Europa, e non mi ricordo chi altro, forse se lo ricorda Favotto, ma se non te lo ricordi non importa, perché noi siamo alle medie e non ti metto meno sul registro. Perfettamente. Allora a questo punto io posso glissare beatamente e andare a dirvi che i Franz Ferdinand hanno rifatto questa versione di All My Friends, originariamente appunto di LCD. Franz Ferdinand, di cui abbiamo una diapositiva, come dicevano Greggio Iacchetti, ossia gran gruppo rock, grande tiro. Li abbiamo visti live? Sì, li abbiamo visti live. Erano a Jesolo? Sì, erano a Jesolo. Bevevano mojiti? No, ma suonavano la batteria tutti insieme. E noi adesso andiamo a riascoltarceli su RSD 102200, Radio Sherwood 97800, in questa cover di LCD Sound System. Signor Favotto, questa è l'ultima puntata di Music for Youth e questa è All My Friends. go back to your house. You check the charts and start to figure it. Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2, questa era All My Friends dei Franz Ferdinand che coverizzavano gli LCD Sound System, ed eccoci già al secondo pezzo. Bentornati in studio Music for Youth, questa è l'ultima puntata per questa stagione di Music for Youth, meritato riposo per noi, vero Favotto? Assolutamente sì, non so se meritato o meno, comunque riposo, probabilmente non eterno in quanto promettiamo di ritornare a settembre, vostro malgrado, però un mesetto ce lo prendiamo per riflettere. Sì, saremo più o meno on air la seconda settimana di settembre. Forse vi sappiamo già dire i primi ospiti, non bastonateci se sarà il contrario, possiamo dirlo, Favotto. Dovrebbero esserci proprio i ragazzi del Venice Disconnect in studio con noi, che parleranno del festival imminente durante quei giorni. Esatto, poi avremo del simpatico revival, ossia qualche persona che ci ha già tenuto compagnia l'anno scorso ci tiene a ritornare. E sì, questo è quanto mai misterioso per le nostre limitate possibilità. E dopodiché speriamo di offrirvi qualcosa di nuovo. Sì, anche perché il panorama si allarga. Noi siamo finiti su un'altra radio, Sherwood per l'appunto, che ringraziamo. Ci è arrivata qualche collaborazione dal quel di Milano. In più ci allargheremo anche su altre branche, se possiamo così chiamarle. Esatto. Su altri rami per noi gibboni, dai. Esatto, sì. Affronteremo alcune tematiche legate alle tecnologie. Ci sono dei ragazzi di Bologna con dei siti internet davvero buoni. Vabbè, comunque non stiamo a parlare del futuro quando non sappiamo nemmeno se domani mattina ci svegliamo perché ci hanno avvelenato. Esatto. Con una pastiglia per i topi presa in giardino per me e te che andiamo a sgraffare sotto le siepi dei giardini di San Donà e ben oltre. Pensa che meraviglio, perché quelle pastiglie per i topi hanno un'enorme funzionalità, ossia sì? Diciamo che uccidono per sete. Ah. E oppure in alternativa, poi sceglierai tu quale preferisci, l'alternativa è che generano del ghiaccio nel sangue, ossia raggelano. Oh santo cielo, per cui cristallizzano il sangue. Per cui l'animale medesimo, ossia me o te, noi, a quel punto è costretto a correre per far battere il cuore. Uno muore o per sfinimento o perché ha sete o perché deve tenersi in corsa. Quindi a questo punto immaginateci correre sull'argine San Marco, superiore o inferiore a vostra scelta, come due piccoli Forrest Gump. Per la prima volta posso dirti che questa discussione sta finendo troppo nel macabro e tu ben mi conosci. Sì. Quindi direi anche di porre fine a quest'ultima. Infatti, e quindi è giusto fare un minimo di silenzio e lasciar parlare quello che è il nostro animale guida. Il nostro animale guida chi è? Erfinestra, ossia la voce che ci ha accompagnato per tutte queste puntate dei Music for Youth ad inizio di sigla. Esatto, voi dovete sapere che prima di cominciare il programma noi lo abbiamo eletto nostro capo spirituale, quindi lui ha una sua religione dove noi siamo gli unici due adepti, in sostanza. Unici due adepti ma molto molto fidati, infatti ve l'abbiamo presentato ad ogni singola puntata dei Music for Youth. Lui anticiperà con i congrui ringraziamenti, i ringraziamenti d'uopo. Esatto. E anticipa per l'appunto il pezzo che andremo adesso ad ascoltarci, che è Crystal, sì, dei New Order. Infatti, dopo il Finestra ci saranno i New Order. Ci saranno i New Order che vi faranno sentire questa traccia. New Order, cui video ve lo potete anche vedere. Sì. È simpatico, c'è un aneddoto legato dietro. Lo vuoi raccontare, Favotto? Certamente. Allora, nel video di Crystal, i New Order non sono i New Order. Ossia, nel video canta una band di giovani maliziosetti. Giovani, proprio belli. Lui ha una frangia che non si può vedere e il gruppo in questione viene presentato come chi? Come i The Killers. Esattamente. Gli omicidi, come piace dire a te. Esattamente. A questo punto i veri The Killers prendono lì lo spunto per il loro nome. Noi invece cediamo la parola a Arfinestra. Esatto. Che vi introdurrà anche a New Order Crystal. Prima però, come dicevamo, sono duopi i ringraziamenti in quelli Music for Youth. Music for Youth sente di dover ringraziare calorosamente Benedetto Ruggero, Twins FM, Slovshow.org, Gain on Top, Dunkel Blau, Chiara Cortez, Seven Sisters Hot Peluches, Bosca, Marcati, The Souls, Reggae Color Orchestra, il Brutus Clan, Strifu, Versi la Musica Elettronica, My Old Olivetti, Tunes.com, Sesto Unplugged, il Festival di Sherwood, Jump Events e di The Lude by Lesbians. If you leave me, I'm a clone. Crystal dei New Order su Music for Youth, Radio Sandana 102.200, Radio Sherwood 97.8. Sì, 97.8. Ero fermo, mi stavo incasinando con i numeri perché dovevo schiacciare tre pulsanti contemporaneamente. Purtroppo la tecnologia mai ci aiuta. E purtroppo noi dobbiamo convivere con queste nostre incapacità, come ci ricordano famosi personaggi biblici. Chi non ha certe incapacità, ma anzi sa destreggiarsi in molti molti ambiti, sono i membri dei Blur. Allora, quando si parla di multitasking, i cognomi Favotto e Terzariol vanno automaticamente esclusi dalla discussione. Ed infatti, chi ci risponde, signor Favotto, ci risponde Alex James, e potrai dirlo tu, è il bassista del gruppo, e che cosa fa? Lui produce formaggi, e non solo, ossia scrive articoli in tema gastronomico, sì. E ha condotto dei programmi TV sull'astronomia. Oh, cioè, sti qua sanno fare tutto. Se gli chiedi, sostituiscono il nostro solito falegname. Esatto. E una qualunque cosa te la fanno per 20 euro. Esatto, te la fanno per 20 sterline perché per loro il cambio è favorevole, però tutto lì. Loro falegnamerizzano con una tranquillità incredibile. Tu dici, è finita qui? Assolutamente, Assolutamente no. No. E infatti tu mi dici il prossimo nome e io ti rispondo sul che cosa fa. Allora, andiamo ora a parlare di Dave Rowntree. Il batterista del gruppo è un provetto pilota di aerei turistici, e la sua passione per l'informatica l'ha portato a gestire automaticamente il sito dei Blur. Inoltre, nel 2008 si è candidato nelle liste laburiste. Quindi anche questo fa due cose. E ora, dulcis in fundo, quello che ci dà più soddisfazione. Tu ti chiederai, che cosa ha fatto Graham Coxon? Oltre a chiedertelo, leggetelo. Che cosa ha fatto? Beh, ha vissuto molti anni difficili durante la sua esperienza nei Blur a causa di una forte dipendenza dall'alcol. Quindi questo non ha fatto assolutamente niente, dipendeva solo che dall'alcol. Tu dici, è un lavoro? Beh, per alcuni comunque è un'occupazione. E sappiate che avete la nostra stima, perché chi prende strade sbagliate solitamente capita in questi studi. Esatto. E comunque Graham Coxon può dire di essere stato in un tunnel per un discreto tempo della sua vita. Noi crediamo lo abbia anche arredato. Graham, remember, the light at the end of the tunnel is a train. Esattamente. La luce in fondo al tunnel è un treno. Esatto. Ricorditi di questa roba. Quindi rimanici, e anzi, se riesci a trovare, non lo so, una poltroncina per sederti è anche auspicabile. Già che ci sei, visto che io e Favotto siamo solitamente dei portoghesi nelle grandi capitali europee, faccia pure due biglietti. Esatto. Ti ringraziamo, tanto i soldi ce li hai, se non li hai spesi tutti in alcol hai comunque le riserve dei Blur, se no hai le riserve della tua carriera solista. Beh, carriera solista che gli ha anche dato un qualche successo, tra l'altro. Assolutamente, perché... sì, ha fatto dei buoni pezzi. Sì, perché cioè lui è ritornato al punk ad un certo punto e lì ci è piaciuto veramente molto. È molto più energico rispetto a quello che fa con i Blur e da a noi questo non dispiace assolutamente. Aveva fatto come Frusciante, a un certo punto se ne esce dal gruppo. Esatto. Fa i suoi beneamati cazzi, vabbè, sì, tanto è l'ultima puntata, potevamo anche dirla, e poi ci ritorna. E infatti adesso i Blur hanno suonato un po' ad Hyde Park lo scorso anno, mi pare, sì. E non so cosa facciano adesso, presumo siano a mangiarsi i dollari da qualche parte, le sterle da qualche parte. Lui probabilmente sta bevendo delle tequile e a questo punto noi... Sì, scusa se ti ho interrotto, ma perché ti ho interrotto? Perché tu hai detto tequile e a me è venuto in mente... Tina Tequila, no, vero? No, Tina Tequila, ma che la tequila se la bevevano anche nel video, o se non era tequila era qualcos'altro, forse era latte più, nel bar del video della prossima canzone che andremo ad ascoltare. Guarda che ti faccio anche i collegamenti. È vero, sì. Adesso che mi ci fai pensare, su Universal degli appunto Blur si beve latte più. Si beve latte più in un bar veramente bello. Il video noi ve lo consigliamo. Sì. Un video veramente strano che trae ispirazione da che film? Di Kubrick. Arancia Meccanica, chiaramente. Oh, e su questo siamo tutti d'accordo. Filmografia e tutto il resto, andatevela a vedere. Tra l'altro c'è un particolare che a me piace ricordare di Arancia Meccanica, se posso dirlo, in cui Amico è Drugo all'interno di Arancia Meccanica. Eh sì. Drug in inglese, e vuol dire anche droga. E tra le droghe cosa ci mettiamo? La dipendenza dall'alcol di Grant Coxon. O latte più. Esatto. Perché latte più vuol dire pure qualcosa. Esattamente. A noi. Questo punto abbiamo un ottimo finale circolare e possiamo andarci a sentire i Blur. Blur che vanno in sottofondo su Music for Youth. Questa, come vi dicevamo, è l'ultima puntata. Noi ora andiamo ad ascoltarceli. Music for Youth, Blur, The Universal. Baci. This is the next century, where the universal's free. You can find it anywhere. Yes, the future's been sold. Every night we're gone. Songs, how we like to sing along, though the words are wrong. In really, really, really could I burn? Yes, and really, really, really could I burn? The days that seem to fall through you, will just let them go. Yeah. E questi erano i Blur ed era The Universal su Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sandona 102.2. Siamo arrivati alla fine della stagione per Music for Youth. Chiudiamo i battenti non prima di aver ringraziato altre persone, oltre a tutti gli artisti che avete sentito attraverso la voce di Air Finestra, ancora prima con New Order Crystal. Favotto, comincia tu con la lista di quei pochi che sono rimasti e che non erano nostri ospiti, però ci hanno dato una mano per questo programma. Sì, ringraziamo per la collaborazione e il sostegno il New Age, L'Unwound a Padova, Tunes Records, per volerci tanto bene e per correggerci quando sbagliamo spesso e volentieri, il Caffè Letterario e l'associazione Art Square. E poi chi? L'associazione Up Arte, che lavora in collaborazione con i ragazzi di Bersi alla Musica Elettronica, che salutiamo. Bandiera Gialla e Punto G. Ringraziamo anche i ragazzi di Bandiera Gialla che ci sponsorizzano tanto in Facebook e che ci ascoltano. Ciao Fioi. Infine la Mela di Newton, un buon locale a Padova che vi consigliamo. E poi non dimentichiamoci di tutti gli ascoltatori, perché volenti o non volenti, 6 mesi in compagnia di queste due voci e ve li siete presi, gente. Sì, noi vi ringraziamo per il grande supporto che ci avete dato. Più di 2200 iscritti in Facebook, non so quanti download, penso più di 500 download delle nostre puntate. I dati in streaming ovviamente sono tripli, quadrupli. Noi eravamo partiti dal nulla e siamo arrivati ben distanti, più in là di quanto ci eravamo dati come aspettativa all'inizio. Quindi, se possiamo dire, possiamo continuare con le autocelebrazioni. Poi però ci aspettate con una tanica di nafta qui giù in via Cesare Battisti 62 a San Donà. I ragazzi di Sherwood ci dicono che siamo tra i primi 3 programmi più ascoltati della radio. Noi vi ringraziamo assolutamente per questa dimostrazione di fiducia quanto mai immeritata. Se volete riprenderci a settembre e volete solo uno spunto, penso riusciremo a mettere in palio parecchi biglietti per concerti grossi, cioè, in un certo senso. Non vi offriamo la sagra di Quarto d'Altino o di Cinisello Balsamo, ma concerti di un certo rilievo. In un certo senso, come sempre, staremo cercando di comprarvi. Esatto. Ora ottimo, è vero, sì, alla fine era questo il messaggio. Ora andiamo con il prossimo gruppo. Sì, non sappiamo assolutamente niente di questi Caesars o Caesar Palace, non so come li conosci tu, e questo è un grosso problema. Allora, io questa cosa la so dire. Questi nascono come Caesar Palace, poi gli viene fatto causa perché il nome è già registrato. Ah. Detto questo, loro si cambiano nome in The Caesars. Quindi è come, per avere un paragone italiano, partire da Casa Vianello e poi chiamarsi i Vianellos. Molto bene. Pensa che saltavano fuori da una realtà che aveva un nome altrettanto schifoso, tipo i Vianellos, che erano i Teddy Bear Stockholm, sì, ossia gli orsetti di Stoccolma. Che meraviglia. Però guarda, io ti dico, qualcosa di Teddy Bear Stockholm l'ho ascoltata, non facevano poi così schifo, ritornavano un po' verso l'old school, ci aggiungevano un po' di rock, un po' di electro, male non hanno fatto. Sì, che poi è quello che fanno più o meno i Caesars, ossia gran chitarre distorte, un po' di sintetizzatore, un po' di elettronica buttata qua e là, e questa Jerk It Out, che è il loro, diciamo, singolo di maggior gusto. Chi ha un po' picchiettato sulla PlayStation FIFA 2000 sicuramente se li sono sentiti in sottofondo. Adesso tocca a Music for Youth metterli. Questa è Jerk It Out e questi sono i Caesar Palace sulle nostre frequenze. jerk it out. Jerk It Out dei Caesars su Music for Youth, Radio Share 178, Radio Sonora 102.2. Bentornati in studio con Daniele Alvise per l'ultima puntata di Music for Youth, e tocca al momento definitivo, quello che ha creato e seminato il terrore nel corso delle nostre puntate. Alvise Favotto, per voi ai microfoni on air Music for Youth, il tempo dei contatti, a lui la parola. Music for Youth, l'estremo saluto. Avete nostalgia di quei filmoni anni 60 in cui un treno parte, lei è sul treno e lui la saluta con un fazzoletto bianco? Benissimo, telefonate allo 0421 560 993 e io mi metto una parrucca bionda ed un rossetto mentre Lele dal binario 3 di San Donà di Piave Jesolo mi saluta con uno dei suoi fazzoletti di stoffa usati. Dopodiché un fax allo 0421 560 994, e c'è l'opzione per la quale Lele mi rincorre fino all'altezza dell'ex dopolavoro, dove viene accoltellato da un set di residenti. Per finire, una mail a radiochiocciola@radiosandona.it. In quel caso io mi ravvedo dell'errore che sto facendo, cerco di scendere dal treno nel momento in cui però passa il diretto in direzione Trieste. Un amore mancato. Bel merci di testa per te, e ovviamente ti sei dimenticato tutti i contatti in internet, o forse sei stato così gentile da cederli a me? No, sono cortese, diciamo. Grazie, non per li so. Grazie per la cortesia, simpatia e anche l'ampio parcheggio che offre casa tua, per non parlare di qualcos'altro. Sì. Sì, i contatti in internet, il nostro blog per l'ultima volta, Music for Youth, YOUTH per i non anglofoni, .wordpress.com. Da lì potete scaricare tutte le puntate in podcast di tutti gli artisti che vi ha detto Air Finestra poche canzoni fa. Esatto, e quando lo dice Air Finestra bisogna crederci. E se lo dice Air Finestra, buona camicia a tutti, e questo invece te lo dice Maurizio Costanzo, caro il mio bel Favotto. I nostri ascoltatori che cosa possono fare? Beh, abbonatevi in Facebook e fateci vedere quanto bene ci volete. Esatto, dimostrateci amore. Music for Youth, come dicevo prima, però aggiungeteci on air se volete cercarci con più specificità. Città, metteteci tanti baci glitterati in bacheca, soprattutto in nostra assenza quando noi saremo in ferie. Esatto, non fate come Maurizio Costanzo, non date affetto solo al frigo, anche noi se ci aprite ci illuminiamo. In più, giusto per andare in chiusura, abbiamo una pagina su www.sherwood.it, potete scaricare gli stessi podcast che trovate nel blog, ma in qualità maggiore perché loro sono meno celtroni di noi. Trovate anche tutte le vecchie playlist, ma le potete anche trovare sul blog e sul gruppo Facebook, per cui vabbè, non serve che fate una tripla fatica. E in ultima analisi, andate a gratis su iTunes, cercate Music for Youth, potete scaricare tutti i podcast, sincronizzate con il nostro programma e portateci in vacanza con la speranza che l'iPod venga impanato sulla sabbia. Oppure usato come ponte levatoio per un castello, sempre di sabbia, chiaramente. O in alternativa, se siete in un letto d'ospedale, è il momento. momento dei Cold War Kids. Hospital Beds è il nuovo pezzo che metteremo. Ormai siamo a 40 minuti di programmazione, meno 20 ai nostri estremi saluti. Beh, era un buon collegamento, vero Favoto? No, è stato molto bello. Io non me ne ero neanche accorto, se devo dire la verità. Stavo notando però che per la prima volta parliamo con una discreta professionalità. Sarà che non c'è nessuno in studio che ci distrae o nessuno che ci corregge. Il telefono non suona, caldo non fa, e i Cold War Kids a noi piacciono parecchio. Sì, avevamo già messo tempo fa Hang Me Up to Dry, appendimi fuori ad asciugare. Adesso passiamo a Letto di ospedale, ossia stendimi su un letto ad asciugare. Beh, hai già preso frescolino fuori, presumo. Esatto. Tu sia definitivamente a posto. Sarai un po' costipato. Parliamo di questi Cold War Kids prima di metterli su. L'album da quale è estratto questo pezzo è lo stesso di Hang Me Up to Dry, ossia Robert & Cowards, un download che io e Elvisa vi consigliamo assolutamente. Tra le loro influenze, chi mi si annovera, buon Favotto? Beh, innanzitutto bisogna citare un che di Radiohead che io ci sento sempre. Poi si fa riferimento a quel che di Roots belle potenti, tipo il sempre amato Bob Dylan, Modest Mouse, i Calexico per certi versi, White Stripes e forse anche un poco di Velvet Underground. Io però più in generale vi consiglio di andarvi a sentire tutto il battaglione di gruppi che trovate su B2 o V2, che è la loro casa discografica, che è gente di tutto rispetto. Possiamo andare ad ascoltarceli. Questa è Hospital Beds su Radio Chandonnà 102.200, Radio Sherwood 97.800. È estratta da Robert & Cowards. Hanno dato vita a un secondo album che Loyalty to Loyalty, ma noi intanto ci ascoltiamo questo estratto dal primo. Thank you. Citizens, come put out the fire on us. Cold War Kids, questa era Hospital Beds su Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sondona 102200, un quarto d'ora alla chiusura di queste frequenze per questa stagione. Favotto, non piangere. Io rimango così basito da questo momento surreale ma bello, come dice Hugh Grant in Notting Hill. Il fatto è che lui lo dice a Julia Roberts, io lo dico a te. E soprattutto lui aveva un chilo di gel sui capelli e sembrava Cesare Maldini ai tempi della nazionale. O Cesare Ragazzi dopo il trapianto. Dopo il famoso trapianto. Bene, a questo punto, dopo aver citato l'intramontabile Cesare, andiamo a giocarci la proposta della settimana. Ultima proposta per quest'anno, e dove andiamo a parare? Beh, ci spostiamo di poco, il confine superato è solo uno, fai il giro per Genova, sì, attraversi la frontiera e sei in Francia. Esatto, dopo la scorsa settimana in cui vi abbiamo detto che tutti i gruppi francesi di base sono un duo, ora vi presentiamo un trio. Eh sì, perché ci hanno chiamato al telefono i Revolver e ci hanno detto, noi siamo un duo, ma in più abbiamo anche un altro bel personaggino con noi, ed è una femmina. Eh sì, i Revolver, band fresca fresca. Se potevi scegliere il nome per la tua band, ma errore fu più grosso perché l'hanno fatto già in 152. Esatto. Visto che vai a prendere dai Beatles. E poi, tra l'altro, voglio dire, tu ti scegli un nome che è anche un locale di Sandonà. No. No, anzi, vabbè, comunque, salutiamo chi gestiva il Revolver. Chi è che gestiva il Revolver? Chi gestisce il Revolver? Gestori del Revolver, vi stiamo salutando. Ciao. Non sappiamo i vostri nomi, ma ciao. Vabbè, comunque. Comunque, in i Revolver francesi, altresì detti i Revolver. Beh, loro partono con un EP nel 2008. Sì, questo sì. EP si chiama Revolver o Pop de Chambre. Studiate, i ragazzi. E a questo punto decidono che il francese non è una lingua terzariola in favotto friendly, quindi fanno un disco sulla lunga distanza quest'anno, nel 2010, intitolato Music for a While, che questo riusciamo a pronunciarlo anche noi, fortunatamente. Allora, da cosa prendono i Revolver? Beh, i Revolver, come detto, sono un trio, c'è una ragazza che non fa mai male, prendono a piene mani dai Beatles, ma a differenza sono un po' più, se posso permettermi, un po' più barocchi, quindi, sì, quindi si presentano ai loro concerti con delle guglie tatuate sulla schiena. Quindi, disco proposto della settimana, come si dice in molte radio, è il momento per te, Favotto, di spararlo. Questa è Music for Youth e questi sono i Revolver con Get Around Town. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Home. You won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back, you go to jail for us, you go to jail for us. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war. The TV Jane for us, TV Jane for us. Such a drama, such a war. The TV Jane for us, TV Jane for us. To get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. The buddy counts down, get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. The buddy counts down. On the old place and camera lens, to go to Jane for us, TV Jane for us. Police on the old place and camera lens, to go to Jane for us, TV Jane for us. To get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. The buddy counts down, get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. The buddy counts down, get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. The buddy counts down, get around town, gentlemen, it's the buddy's countdown. E questi erano i Revolver sui 97.8 di Radio Sherwood e sui 102.2 di Radio Sandonà, sempre in compagnia di Music for Youth, YOUTH per i non anglofoni. Terza Riol, qui il tempo stringe. Ma seriamente stringe? Come dicono gli inglesi, sun it's hours. Cioè proprio dobbiamo stringere, stringi, stringi, come prenditi un limone e fai qualcosa. No, come un... ciuccialo. Il famoso limone che stringe. Vabbè. Oppure pensa di essere Marisa Laurito con in mano uno Slim Fast. E magnate anche la carta fuori dello Slim Fast e prega di dimagrire svegliandoti il giorno dopo. Tra l'altro c'erano le due versioni cioccolata e fragola che a me sarebbero piaciute. Ascolta, per cortesia, stiamo andando in finale di programma, eravamo stati bravissimi fino adesso, non cominciamo a buttarlo in vacca. Esatto, non buttiamola alle mucche a questo punto. Noi a quanto pare dobbiamo pure presentare l'ultima canzone di Music for Youth. Allora, questa canzone non ha una genesi sostanzialmente, però dovevamo trovare qualcosa di tranquillo. Sì. Io e Favotto, quando vogliamo ascoltare qualcosa di tranquillo, prendiamo una maca. Esatto. E mettiamo pezzi tipo di jazz o altre cose incomprensibili che farebbero parecchio schifo nelle nostre playlist. E quindi abbiamo optato per Bright Eyes. Ottimo cantante. Sì. Sconosciuto di più, e ci dispiace perché questa cosa noi è sempre dispiaciuta. No, infatti lui, poveretto, voglio dire, ha fatto una serie di cose strabelle e però non è poi tanto conosciuto e non è poi tanto apprezzato. Occhi lucidi. Sì. Che si chiama Conor Oberst. Mm-hmm. Oltre ai tuoi occhi lucidi, perché stai per salutare tutti quanti con il fazzolettino e noi siamo tutti in treno e ce ne andiamo. Conor Oberst suonava prima nei Commander Venus. Mm-hmm. E poi ha deciso di partire con una carriera solista chiamandosi Bright Eyes. La band poi si è costruita attorno a lui usando questo pseudonimo. Tra l'altro lui ci ha regalato nel tempo un paio di singoletti che sono andati recentemente, beh, non proprio recentemente, comunque ai tempi che furono, sono andati in testa delle classifiche di Billboard, quindi non è mica roba da poco, insomma. C'è un video bellissimo che si chiama, molto romantic, che si chiama First Day of My Life. È vero. Andatevelo a vedere, c'è tutta la gente sui divani, non che amoreggia, che però si vuole molto bene in maniera platonica. Che come... C'è dello scambio di affetti. Ci sono, tra la gente sui divani ci sono anche due maiali, i famosi porci comodi. Comodissimi, quanto noi su queste sedie, non riusciremo più a staccarci dal caldo che c'è, anche perché è luglio e questa stagione di Music for Youth con oggi si esaurisce. E anche questa stagione di muschi e licheni si esaurisce. Noi, in attesa che un nuovo inverno piombi su questi studi, vi porteremo anche i Kent con Vinternoldock, un pezzo svedese, potremo metterlo. Potremo assolutamente, soprattutto perché lui canta in questa lingua sconosciuta ai più, che però ha del musicale. Sì, ha del musicale, come i Sigur Rós che cantano in Opelandic. Esatto. Non usciamo troppo dai tracciati, stiamo parlando di Bright Eyes, che licenzia due ottimi album e li fa uscire in contemporanea. Uno è Digital Ash in a Digital Urn e l'altro è I'm Wide Awake It's Morning, dal quale è stata poi estratta First Day of My Life. Dall'altra parte c'era un'ottima traccia che si chiamava Lua. Esatto. E c'era anche la famosa Take It Easy Love Nothing e tutta un'altra serie di canzoni che noi tutto sommato vi consigliamo. Sì. Music for Youth arriva al termine, non sappiamo neanche più che cosa dire perché i ringraziamenti li abbiamo già fatti. Vi rimandiamo alla prossima stagione, più o meno saremo sempre su queste frequenze di Radio Sandona 102.200 e sulle frequenze di Radio Sherwood 97.800. Non sappiamo ancora l'ora, presumiamo su Radio Sandona di essere confermati il mercoledì alle 22, in replica il lunedì successivo alle ore 21. Per Sherwood, se il palinsesto rimane uguale e tale, ci becchiamo l'orario di ufficio del martedì dalle 17.30. Ma tanto cosa ve ne frega degli orari a voi, che scaricherete sicuramente il podcast da dove? Da Music for Youth, scritto Music for Youth, YOUTH. .wordpress.com. Ora si riparte, come diceva giustamente il qui presente Lele, da settembre inoltrato, e si va avanti molto probabilmente per un annetto, speriamo, come sì, l'allenatore dell'Avellino, di vedere il panettone. Noi non siamo Corini del Portoguaro che abbandona la squadra ancora prima del ritiro, quindi ci risentiamo, come abbiamo appena detto, su queste frequenze, e vi porteremo avanti in compagnia per tutta una serie di settimane. Non andremo mai in pausa, Sarrande sempre aperto. Magari ci sarà qualche puntata diversa, perché gli ospiti ovviamente non possono esserci tutte le settimane, anche se a noi farebbe molto molto piacere. Ci saranno... Ma agli ospiti un po' di meno. Ci saranno alcune serate dedicate alle etichette, o magari serate in cui beccherete me e Alvise a presentare una playlist di tutto rispetto, come quella di stasera. In questo caso esistono il cinema, le bocciofile, i filmoni, i cinepanettoni. Beh, con questo si conclude la stagione estiva e il primo anno di vita di Music for Youth. Vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi. Un saluto ad Alberto, che come sempre se lo merita. Te lo meriti, Albertone, sei il nostro DJ preferito. E noi ci rivediamo a settembre. Alvise Favotto, ti ringrazio per essere stato in compagnia a questi microfoni con me. Anch'io, Daniele Terzariol, altrimenti qua si era con il lumino a prendere trote, molto probabilmente in un qualche torrentello di periferia. Questa è Music for Youth su Radio Sherwood 97.8, Radio Sandona 102.200. Ultimo saluto, Bright Eyes, dall'album I'm Wide Awake It's Morning, True Blue, sulle nostre frequenze. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. I am a blue blood, I will admit that. I dance in blue shoes and wear a blue hat. Live in a blue house, on a blue street, in a blue town, by a blue creek. I write my blue songs with my blue pen. I sing the blue notes to my blue friends. Now I don't know that much about you, but I like you because you're true blue. Dream about a blue star, in it I drove there in my blue car. And when I got there, I met a blue dog with a blue tongue. We had some real fun. We bounced a blue ball, it broke a blue glass. We banged on blue drums and called it bluegrass. Guess the thing I'm trying to tell you is that it's best, kid, if you're true blue. Once I had gangrene, I got it real bad. And so the doc came with his black bag. I said, you know, doc, I don't feel swell. If he had a blue bag, I think I'd get well. So he came right back with a blue sack. He said, will this do? I said, why not? Yeah, that's why I'm here today, to tell you that it's best, man, to be true blue. Mate always had blue lips. His name was Bluebeard. He had a weird twitch. We flew a blue flag on a big stick. And we ate bluegill and we ate blue chips. Oh, I felt real blue eating that bluefish. Because there ain't much that I won't do unless it keeps me from being true blue. once in a blue moon, there's a blue sky. I wear my blue jeans and fly my blue kite. Things like a blue bird until the wind dies. And then the tears pour out of my blue eyes. If it's your birthday, we'll bake a blue cake. And then we'll eat it off these blue plates. Cause kid, I don't know much about you, but I like you because you're true blue. Yeah, I don't know much about you, but I like you cause you're true blue.